sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Siamo state convocate anche noi. Grazie mille. Bene, allora siamo tutti convocati. Uno, due, tre. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. In vacanza vieni qui da noi e ingoi sempre più che puoi. Insomma qui in provincia fai quel che vuoi. Tanto in fondo non son cazzi tuoi perché stai sottovalutare la provincia. E fai sottovalutare la provincia. Nell'area per Maccarone che è solissimo e non può sbagliare. È il gol dell'1-1. Ancora Big Mac. Stai sottovalutare la provincia. E fai sottovalutare la provincia. È finita, quinto pareggio consecutivo in casa per la Roma, l'orgoglio del Parma. Ferma la Roma che guadagna sì un punto sul Napoli. Come ho sempre detto, questi sono ragazzi che hanno una dignità importante e cercheranno di fare il loro dovere sempre, anche perché finché la matematica non ci condanna abbiamo il dovere di provarci sempre. E oggi è la dimostrazione, quindi sono contento per loro prima di tutto e vediamo poi il prossimo cosa ci riserverà. Sai sottovalutare la provincia. E mai sottovalutare la provincia. Pirlo rischia molto su questa pressione, ha rubato palla ancora una volta De Frel, c'è Djuric che la chiede, De Frel accontenta Djuric, Djuric avanti il Cesena, 1-0 al 17esimo, il contropiede, De Frel per Djuric. Ancora Renzetti, si propone se Eduardo, parte il cross di Renzetti, Djuric sponda, Brienza! Ne torno in provincia, voi seguite la scia. Giorgio De Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronato in regia dei miei buoni amici in redazione, giornata che sarà piaciuta poco, ne parliamo dopo ai vari lottiti del calcio italiano. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Bene, ieri sera eri a Cesena, sì. Hai visto la Juventus perdere il treno, il sì. Secondo consecutivo. Dopo Udine, ma insomma è abbastanza simile come tipo di situazione, anche se con tutto rispetto per il Cesena la partita sembrava più facile sulla carta, perché Cesena comunque è penultimo in classifica e corrono, corrono molto e mi hanno dato ancora la sensazione di essere una squadra viva. Poi la distanza non è facile da colmare, servirebbe un filotto di vittoria che mi sembra complesso, però insomma sono ancora una squadra di calcio e questo è incoraggiante e positivo per il campionato. La Juve, ma per me sembra si stia semplicemente gestendo. Certo, la Juve di Conte avrebbe avuto un atteggiamento diverso, secondo me. È appropriata la parola presunzione che ha speso Allegri? Se lo dice lui, voglio dire, insomma, in fondo se dice la squadra è presuntuosa si sta facendo le pulci, no? Si sta dando evidentemente una io penso che ci stia questa valutazione, nel senso che sicuramente la partita è stata buttata via, la Juve comunque l'aveva portata sul 2-1, nel secondo tempo l'ha gestita con l'atteggiamento di chi sapeva che tanto in un modo o nell'altro l'avrebbe vinta e non l'ha vinta. Però se vedo la stagione della Juve rispetto agli eccessi di Conte, all'ansia, all'ossessione da record di Conte, che fece turnover, ricorderete, in Coppa Italia per esempio in Roma-Juve dell'anno scorso, e che comunque anche col Benfica ha avuto un atteggiamento non secondo me perfetto, mi sembra che Allegri stia facendo una gestione un po' più meno ossessiva è un po' più sui tre fronti, quindi poi i conti li faremo alla fine. Ieri sera ho avuto la sensazione che la Juve di Conte la partita del genere l'avrebbe vinta senza grandi problemi, perché la furia agonistica e l'intensità dell'anno scorso era superiore, però poi magari alla fine della stagione avrà avuto ragione Allegri, perché magari lo scudetto la Juve lo vince, magari con 15 punti meno dell'anno scorso, ma tanto conta uguale, sì, uguale. E poi magari fa più strada nelle coppe. Sì. 800-24-00-24 per dirci se per voi comunque il campionato è chiuso e se la Juventus sta giocando al gatto con il topo. Un po' moribondo giallo-rosso, Pier. Sì, no, beh, io credo che veramente. A parte che, come dicevo anche ieri, c'è molto della storia della Roma nel pareggio in casa con l'ultima in classifica. Da Venezia a Roma in poi. a Roma-Pescara di un paio di anni fa, che era una partita comunque importante per andare in Europa, a un ancora Roma negli anni di Capello, nell'anno della lotta a scudetto contro il Milan di Ancelotti. Insomma, la Roma ce l'ha queste cadute, senza tornare a Roma-Lecce, insomma, sì, dire, queste occasioni perse. E mi sembra che al di là della cabala ci siano dei problemi enormi di ritmo, di condizione fisica, ad un viaggio Gervinho buttati nella mischia appena tornati in piena celebrazione, Totti fuori con la febbre, non è neanche fortunata la Roma sicuramente, però insomma io credo la partita di ieri, noi ci siamo sentiti ieri dopo il pareggio della Roma e prima della partita con la Juve, sì, e io ti ho detto che dopo il pareggio della Roma contro il Parma, anche se la Juve non avesse vinto e pensavo che vincesse, cambiava poco da un certo punto di quasi vista, quasi niente, una giornata oggi, in meno stessa oggi, distanza, 7 punti che sono tanti. Esatto, ad oggi la sensazione è che la Juve sia comunque la più forte, quella in grado di gestire la situazione, e il vero paradosso di questo weekend è che forse alla fine quella che è uscito meglio fra le prime tre è il Napoli, nel senso che il Napoli alla fine ha perso un punto. Napoli ha perso un punto, però aveva sicuramente la partita più difficile. Deve stare attenta perché mi sembra che Fiorentina e Lazio dietro fanno sul serio, un bel ritmo, anche il Genoa, anche se adesso arriva il derby, tutto da vedere, ma insomma Fiorentina e Lazio mi sembra che facciano sul serio. Sì, e poi salvo cali di tensione di prestazione che in questo campionato sono all'ordine del giorno, soprattutto per quelli che inseguono. Allora, secondo Andrea da Milano, bonifico più bonifico meno, Manenti non riesce a comprarsi anche il Milan, domanda, non credo, non ci riescono neanche i thailandesi che hanno fatto sta offerta, alla fine mi è stato detto non interessati, ma non mi sembra questa la pista da seguire, starei più su quella cinese, ma saranno altri discorsi. Secondo Mimmo da Roma, Juventino, ci può stare una serata in Riviera. 800 24 00 24, numero verde, torniamo subito. Il vantaggio è rimasto invariato e ora dobbiamo con calma preparare bene la partita di venerdì, perché poi dopo avremo la Champions, e non ricommettere questi errori. Ogni tanto queste partite da un lato fanno male perché sono partite quasi decisive per lo scudetto, ma dall'altro lato ci riportano un poco piedi per terra, perché ogni tanto diamo segni un po' di presunzione. Tutti convocati. Ma questa telefonata a noi non è servita per peggiorare l'immagine, l'idea che già avevamo del presidente della Lazio, di certi metodi che vengono applicati nella gestione della Lega, quindi per noi, ahimè, duole dire, ma niente di nuovo. Il nostro presidente in tempi non sospetti è stato uno degli estensori del progetto di riforma da affidare al candidato e quindi al neo presidente federale. Ha definito comunque inadeguati i vertici societari nella persona soprattutto del presidente Tavecchio. Io a settembre ho detto che accentrare troppo potere in Lotito, un presidente di club con diversi conflitti di interessi, era molto pericoloso, e oggi siamo davanti a questo scenario, sicuramente un scenario inquietante. Voci dall'opposizione di ieri, Baldissone dalla Roma e Marotta dalla Juventus, voci attese peraltro, ripeto, dall'opposizione. Saluto e ringrazio Sandro Sabatini, mentre Piero ci parla ovviamente. Saba. Ciao a tutti, ciao Pier. Ciao. Giornata, Sandro, e sarà piaciuta poco, dicevo prima, ai lottiti del calcio italiano, Parma, Empoli, Cesena. Sì, ma credo che è un tema che oggi hanno sviluppato, per esempio, tutti i giornali in prima pagina, le televisioni, ieri, insomma, le radio, eccetera. Credo anche che sia riduttivo comunque. Cioè, secondo me, da mettere a fuoco non è tanto questo, che poi in fin dei conti, se voi due foste, o tutti quelli che sono all'ascolto, fossero proprietari per esempio di una televisione, è una cosa che direbbero normalmente, no? Perché si fanno più abbonati o si vendono più tessere con il Bologna e il Bari per esempio in Serie A. E quello che dà fastidio di quella telefonata, seppur i modi eccetera eccetera, è quando lui dice: ho detto ad Abodi che non mi far venire su, perché mi preoccupa il fatto che lui possa dire ad Abodi per la Serie B e a se stesso evidentemente per la Serie A: mandiamo giù invece queste squadre qua. Ecco, hai centrato pienamente il punto. Qui diciamo il controllo incrociato che andrebbe fatto e che bisognerebbe eventualmente verificare è Abodi. ed è il comportamento degli arbitri nei confronti delle piccole squadre di Serie B che possono andare in Serie A. Detto questo, visto che siamo, insomma, sapete che le cose ce le diciamo, io penso che a Bodi, per lo stesso identico motivo, sia ben contento dal suo punto di vista utilitaristico di avere delle grandi piazze in Serie B. Cioè, è chiaro che a Bodi non ti va per nessuno, ci mancherebbe altro, ma è ovvio che se tu devi fare alla fine dell'anno un dato, per esempio, sulle presenze allo stadio, il fatto che in Serie B ci siano Bologna, Bari, Perugia, piazze molto importanti, è un valore per la Serie B ed è un peccato per la Serie A non avere queste piazze. Cioè, secondo me, usciamo dall'ipocrisia sul tema. L'ipocrisia sul tema, togliamola, perché noi siamo tutti sportivi, credo, senza discussione, tutti pronti a riconoscere assolutamente il merito in maniera ancora maggiore alle squadre piccole che lottano. Io poi ma quando vedevo il tennis da bambino ti favo sempre perché il favorito perdesse, e credo che sia un meccanismo psicologico di tante persone, no? Cioè sperare sempre nella sorpresa. Ieri sarà una giornata bellissima da questo punto di vista, quindi applausi, e ci mancherebbe altro. È ovvio che chi deve far di conto e che alla fine dell'anno deve dire presenza negli stadi, introiti dal botteghino, introiti per i diritti televisivi, ascolti TV, fa una linea e dice quello. Platini sicuramente non vuole Basilea, Bayer Leverkusen come finale di Champions League e preferisce Real Madrid-Chelsea, non credo che ci sia discussione su questo. Certo. Però il punto fondamentale è capire se a questa telefonata, certamente sgradevole, poi fanno contorno delle telefonate, invece quelle sì, incisive, decisive, di pressione nei confronti dei vertici degli arbitri, dei vertici della Serie B per biscottare il campionato. Poi, se questo succede, lo Tito va cacciato da tutto. Se questo non c'è, però, allora non starei a fare una questione. Però, sai, se è vero che lo Tito è il vero padrone del calcio italiano e della Lega di Serie A, non si sta facendo tantissimo. No, però dico, non si sta facendo tantissimo per sbattere in B Chievo, Empoli, Sassuolo, eccetera. Ma appunto, quasi per paradosso. Posso dire una cosa, Carlo? Sì, certo, e a tutti quelli che poi alla fine, no, io sarei, stiamo parlando a Radio 24, dove probabilmente anche chi ci ascolta sa più di economia, non di voi due, ma di me sicuramente. Però io so che lo stipendio del dottor Beretta, che peraltro è un secondo lavoro il suo da presidente della Lega, è, non so se lordo o netto, ma comunque supera i 500.000 euro annui. So che per esempio questi libri di Tavecchio non ci avrà guadagnato neanche un euro, neanche un caffè, ma la casa editrice sì, sono state acquistate da Federcalcio per 20.000 copie per 110.000 euro. Ecco, io mi chiedo anche quanti soldi, so che faccio un discorso molto populistico, però lo faccio perché questo è il mio livello di economia, quanti soldi vengono spesi male dal calcio italiano, e poi tanto che poi il calcio italiano è costretto, come dice lo Tito, ad augurarsi che ci siano solo grandi piazze in Serie A, perché altrimenti salta tutto. Spendiamoli meglio, investiamoli meglio i soldi, e poi dopo vediamo, perché in Europa riescono a fare un calcio sostenibile e noi invece siamo l'unico paese che non ci riesce. Sì. Senti, propongo di tornare al pallone visto ieri, 800240024. Pier, dunque, a meno benzina la Juventus o la Roma, per capire? Beh, la Roma in questo momento mi sembra che abbia meno riserva totale. Perché il pareggio in casa col Parma, il Parma veramente è una squadra che non... aveva fatto 10 punti, 9 visto quello di penalizzazione, ed era proprio diventata encefalogramma piatto nelle ultime partite, quindi l'idea che la Roma non sia riuscita a segnare nemmeno un gol contro questo orgogliosissimo, nobile, meritevole e encomiabile Parma, però secondo me è un segnale veramente di spia della riserva accesa. La Juve, e poi appunto secondo me c'è anche questa dinamica qui molto banale, che la Juve ha giocato dopo, è la seconda volta che succede. Cioè, dice, se giocano le tre in contemporanea vince la partita. Non lo so, può manca essere. La controprova, però certamente. È chiaro che scendi in campo sapendo che se stai già più 6... Se vinci va a più 9, se pareggi va a più 7, poi la Juve ieri sera era arrabbiatissima, su questo non ci sono dubbi, e quindi certamente la partita non è andata come sperava, però mi sembra che la Juve complessivamente abbia più soluzioni, anche se ieri ho visto delle fragilità difensive, ad esempio, abbastanza inquietanti. Sì, questo è vero. Sandro, c'è da fidarsi dell'Inter? È scesa dall'altalena? Secondo me sì, perché comunque è una buona squadra. Brozovic è un buon giocatore, Shaqiri, che a me non mi aveva entusiasmato, magari non sarà un titolare nel Bayern Monaco, come è anche normale che sia così, però è uno che ci sa fare. E poi Mancini, poche storie, riesce a far sentire i giocatori più presuntuosi, un po' presuntuosi come lo era lui, no? Sì. Detto in senso buono da calciatore. Cioè, Guarin è uno che ha la consapevolezza adesso dei mezzi che non aveva mai avuto né con nei due anni con nell'anno e mezzo con Mazzarri. Sì. E Guarin è sempre lo stesso, si allena sempre allo stesso modo, fa sempre gli stessi selfie. Prima non giocava, ma adesso gioca. Prima non giocava, non sapeva che cosa fare in campo e adesso lo sa cosa fare, che poi è anche molto semplice, bastava farlo rigiocare come giocava nel Porto, sì, partendo da dietro, oppure neanche nella nazionale sua. Sì. Grazie Sandro, a presto. Ciao. A voi. Ciao Sandro Sabatini. Senti Pier, ti do un dato prima di Stefano da Milano. Sì. 2015, che, allora anno solare 2015, conto un tubo, però è questo. Anno solare 2015, le tre squadre peggiori sono Parma 4 punti, Milan 5, Udinese 6 punti. Quindi queste sarebbero le tre retrocesse del 2015. Inzaghi è il peggior allenatore sul piano numerico dell'era Berlusconi, l'abbiamo letto su tutti i giornali. Diventa difficile difenderlo adesso. Dai, guarda, il Milan ieri... Io sto preparando la puntata di stasera, c'è un dato numerico che ieri ho anche twittato, che è quello ufficiale tra l'altro della Lega Calcio, sui numeri di Milan-Empoli, perché certe volte è meglio perdere, non so come dirti, cioè ci sono sconfitte più onorevoli di... Cioè tu dici? Del pareggio di ieri, io il Milan, non soltanto il Milan, qualsiasi squadra, conosco sconfitte più onorevoli del pareggio del Milan di ieri, ed è lo stesso discorso che avevamo fatto dopo Torino-Milan, cioè ieri... Il punto è proprio come si sta in campo, che è una cosa fuori dal mondo, una squadra che è fragile, che non riesce a sviluppare gioco, che va in difficoltà soprattutto con le squadre piccole. Ma può andare avanti così? Che ti devo dire? Io non penso che mandino via... Hanno fatto un buon mercato, secondo me, a gennaio, complessivamente. Cioè, hanno preso comunque 4 giocatori... che possono essere molto utili alla causa. Volendo hanno rifatto la spina dorsale alla squadra. A me Inzaghi sta deludendo, io lo devo dire, insomma, la mia stima per l'uomo, per il calciatore è totale, però insomma non è chiaramente aiutato dagli eventi, non è aiutato dalla squadra, sì, non è il debutto più morbido possibile, però io mi aspettavo di più. Sì, e adesso la sensazione è che si è atteso lui e si è attesa da morire anche la squadra. D'altra parte ieri Sarri l'ha detto, che ti hanno la paura negli occhi, che diventa poi terrore nel corso della partita. Stefano Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie dell'opportunità. Grazie. Mi riallaccio al discorso del Milan, con il problema secondo me anche del portiere, che non comunica con i compagni davanti. Il gol di ieri, secondo me, una buona responsabilità è sua, perché è lui che vede il cross, è lui che vede che non sono posizionati né palestra né rami. E anche durante tutto il campionato ho visto che parla poco con i difensori davanti. Non so se l'avete notato anche voi. Sì, c'è da dire che secondo me, se ci sono due giocatori funzionali a una specie di progetto, possono essere Diego Lopez destro, magari De Sciglio, magari il Sharawi, se torna il Sharawi, e non ce ne sono tanti nel Milan. Mi sembra che al Milan il problema sia minore dei il portiere sia minore dei problemi. Sì, allora, sì. Ieri ha sbagliato chiaramente sull'azione che ha portato. Vogliamo parlare di Paletta, che... No, certo, dai, però Diego Lopez spesso, ed è un altro segnale inquietante, spesso è il migliore del Milan. Sì, era stato anche ieri nel primo tempo, comunque ha fatto due belle parate. Insomma, una strepitosa. Sono d'accordo con te, non mi sembra certamente lui il problema. Il problema è l'assoluta mancanza di qualità che c'è in mezzo al campo, proprio assoluta, di una squadra che non ha niente lì in mezzo in termini di qualità e di personalità, niente ovviamente per la dimensione che dovrebbe avere una squadra come il Milan, poi è chiaro che c'è anche il peggio, però certo. E va in difficoltà soprattutto nelle partite con le squadre che si chiudono e che possono giocare di ripartenza, perché non riesce a costruire il gioco, e poi dietro i meccanismi non funzionano e davanti si segna poco, ecco. A parte questo tutto bene, funziona niente, tutto il resto perfetto. Esatto. Ci fermiamo per la borsa, poi c'è Andrea D'Ascoli da provincia di Ascoli, e poi dovremmo avere un bell'ospite. E lei, quella è ancora la botta al naso famosa, televisiva, diciamo, in bordo campo? La pallonata? Questa? Sì? No. No, questa è il saluto di Osvaldo. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Mentre Roberto da Torino scrive: Mancini su Osvaldo, che abbiamo sentito prima, è stato molto più divertente dei comici andati a Sanremo. Questo è il pensiero di Roberto via SMS. Pierpardo, facciamo al volo due ascoltatori, poi dovremmo avere un ospite. Andrea, provincia di Ascoli, era già in linea da prima. Ciao Andrea, grazie. Salve, ciao, grazie a voi. Volevo fare una domanda a Pardo, che se secondo lui il ruolo di Vidal sia consono alle sue caratteristiche. Secondo me no, però Allegri allena in Serie A, io alleno in terza categoria, però secondo quello da, che... Da trequartista o da centrale? Di centrale? No, da trequartista, perché da trequartista. Giocare sì. Sul vertice alto del rombo, e secondo me non ha le caratteristiche per fare quel ruolo. Poi può anche darsi che mi sbagli. Ti sbaglia, Piero? No, ma sai, la verità è che nessuno dei quattro centrocampisti della Juve nessuno dei quattro è un regista puro. La Juve cercava un giocatore, ad esempio, come Snyder per avere una soluzione in più in quel tipo di schema tattico. Lì chiunque si adatta, perché Marchisio sappiamo che si è adattato per esempio durante il Mondiale 2010 e ha fatto il finto trequartista, però non è esattamente la stessa cosa di quando può invece inserirsi da intermedio. Sì. Pirlo nasce trequartista, ma ovviamente con il passare degli anni adesso è diventato un regista davanti alla difesa, da Mazzone prima, Ancelotti poi ha cambiato ruolo. Pogba comunque ha una fisicità tale lì in mezzo per cui è indispensabile, e quindi alla fine uno dei quattro ci deve giocare, sono d'accordo. Cioè, secondo me anche Vidal, diciamo, la morte sua, come diciamo a Roma, il ruolo migliore è da intermedio. Centrocampo a tre, cioè sì. anche se a me sembra un giocatore, cioè non mi sembra, è oggettivamente un giocatore che sta facendo molto meno rispetto alle stagioni precedenti. Non voglio dire che sia in declino. Senti, parliamo con l'allenatore che ha fermato ieri la Juventus. Certamente. Mimmo Di Carlo, buongiorno. Certo. Buongiorno, grazie. Allora, la prima domanda la lascio a Pardo, che ieri ha visto la partita allo stadio e quindi ha più memoria visiva di me. Ma allora, innanzitutto i complimenti, perché ho visto una squadra ancora viva. Che direi alla squadra domani? Quando è che vi rivedete? Domani? Cioè, che cosa insegna questa partita? Quanta motivazione dà? Quanta energia dà? Perché la distanza non è poca, onestamente, lo saprai bene, no? Eccomi. È andata via la comunicazione, non ho sentito la chiamata. Volevo sapere che cosa dirai alla squadra, la prima cosa che dirai quando ricomincerai il lavoro, penso domani. Abbiamo fatto questa mattina, da dove si riparte dopo questa buona prestazione? Ma noi avevamo già fatto due vittorie importanti prima di andare a Empoli, interrompere quel mini percorso di risultati. E io mi aspettavo una reazione dopo la sconfitta di Empoli, che c'è stata, e devo dire che noi stiamo bene, è un periodo che comunque stiamo giocando un buon calcio, siamo intensi, siamo aggressivi, giochiamo palla a terra, abbiamo la seconda palla, quindi diciamo che secondo qui ci sono tutte le... Non sentiamo più. Ci sono tutte le... Adesso ci riproviamo. Pietro Roma, buongiorno. Ciao, buongiorno Carlo, grazie per la convocazione. Ciao Pier, voglio fare due domande. In particolare, non vi sembra strano che la comunicazione del DG dell'Ischia con lo Tito sia stata intercettata per doppi fini? E poi un'altra domanda sulla Roma e sul Parma. Il Parma, se avesse fatto una prestazione diversa a Torino, avrebbe evitato di prendere 7 gol. Ieri ha giocato oltre le proprie possibilità. E poi un'altra domanda e finisco, vi ascolto per radio. Di Steiner, ogni partita fa 4-5 falli, ieri doveva essere ammonito, non è stato mai ammonito, naturalmente andava espulso, e poi c'era un rigore alla fine a favore del Cesena. Grazie. Torniamo dall'allenatore del Cesena, Pietro. Certo, dovremmo aver ristabilito la... Poi rispondiamo a Pietro. Poi rispondiamo. Mimmo, eccoci. Sì. Ecco, dicevo solo che come stamattina vi ho detto, ragazzi, ci serviva la partita perfetta. La partita non l'abbiamo fatta perfetta, a parte qualche errore individuale che dobbiamo correggere assolutamente, perché se vogliamo salvarci bisogna essere bravi a tenere la concentrazione 90 minuti. Ieri abbiamo trovato una Juve probabilmente rimasta sorpresa dalla velocità, dall'intensità di gioco, fuori un pareggio che sicuramente c'è anche un po' di rammarico da parte nostra. Senti, ma avete pareggiato con la squadra che vincerà lo scudetto, no? Sì, sicuramente sì, però la Juve, probabilmente questo pareggio qua può servire anche alla Juve, perché secondo me ci sono delle volte che magari la Juve abbassa l'intensità, e questa è la dimostrazione che ogni partita nel campionato di ritorno non c'è mai risultato scontato, bisogna bisogna tutti affrontare al massimo delle proprie possibilità e cercare di commettere pochi errori. Pierluigi, abbiamo visto De Frel, che mi sembra, non so quante volte l'hai commentato quest'anno, ma mi sembra mai, bravo, mai, no, mai. Non l'avevo visto. Che impressione ti ha fatto? No, mi è piaciuto molto anche Djuric, sinceramente. Sì, anche a me. Che abbia dato un grande contributo, Brienza. No, io vorrei capire come si riesce, lo so che la domanda è delle 100 pistole, come si riesce quell'energia che abbiamo visto ieri, per esempio nei primi 20 minuti e nel secondo tempo, a riproporla in partite magari con meno spazi, con avversarie magari dal blasone minore, perché mi sembra questa la partita, insomma. L'intensità fisica di ieri del Cesena è da squadra che si salva, lo dico proprio sinceramente. Sì. Però poi come si fa adesso dalla prossima, vabbè, la prossima partita è col Milan, ma come si fa? Facile, il Milan è facile. No? Ma il Milan non è facile, però posso dire la provocazione, in questo momento non è neanche la peggiore avversaria possibile e potrebbe riproporre lo stesso tipo di situazione tattica che si è vista ieri contro l'Empoli, no? 2015, Milan per ultimo in classifica, 5 punti, ci si era fatto meglio, Mimmo. Ma io penso che noi da quando sono arrivato abbiamo iniziato un percorso di crescita di gioco, di personalità e di fiducia. Io penso che oggi Cesena è vivo e se la può giocare con chiunque, l'importante è che rimane umile, che lavora, che le idee che abbiamo proposto, che continuiamo a allenarle durante la settimana, e chiaramente dipende solo da noi stessi e non dagli altri, perché siamo penultimi, quindi non possiamo fare nessun calcolo. Noi dobbiamo provare a vincere su qualsiasi campo, in casa e fuori casa, perché noi per salvarci bisogna fare almeno 5-6 vittorie, quindi il nostro percorso sappiamo benissimo qual è chiaro che andiamo a affrontare un Milan che sarà molto arrabbiato e quindi dobbiamo essere ancora più bravi a presentarci con personalità e con voglia di voler fare l'impresa anche a Milano. Un'ultima cosa, mister, giornata di ieri dedicata a chi non vede di buon occhio la provincia in Serie A? Ah no, ma non è così, io non sono... Lo sapete anche voi che il calcio è bello perché comunque se tu giochi meglio dell'altro puoi vincere, questa è la realtà. E a ogni partita fa una storia a sé, non sono tutte uguali le partite. E la dimostrazione soprattutto del campionato di ritorno, ripeto, è che le partite sono difficilissime perché tutti hanno degli obiettivi da poter portare a casa. Chi per la salvezza, chi per lo scudetto, chi per la Champions League, ogni partita ci sarà sempre la massima concentrazione e attenzione. Poi, ripeto, le piccole ogni tanto quando vincono fa anche bene perché questo è bello del calcio. Grazie mister. Grazie, in bocca al lupo. Ciao, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Chi c'è stasera, Tiki-Taka, Pier? Stasera c'è Iachini, c'è il signor Cruciani, c'è Mughini, c'è l'autoressa Satta, abbiamo Alex Britti, Telese... Dalai, insomma siamo messi molto bene, parleremo ovviamente della Bufalo Tito, parleremo di Palermo-Napoli e di questo Palermo eccezionale che Iachini sta costruendo. Ma secondo te è il miglior allenatore della Serie A quest'anno Iachini? Beh, diciamo che è nelle nomination, sul podio. Cioè rapporto ovviamente, tutti i rapporti che vogliamo, non siamo al pallone d'oro per fortuna. No, però sì, il rapporto fra le premesse e la posizione in classifica ad oggi secondo me è il migliore. Davanti a Di Francesco, davanti a Mihajlovic che si sta un po' perdendo. Sono d'accordo sulle tre nomination. Poi voglio vedere anche Allegri, che io rimango convinto che stia vivendo, poi vediamo come va a finire, ma la stagione della consacrazione con questa Juventus post Conte che sta gestendo, al di là degli alti e bassi, dei pareggi Cesena Udine, con enorme intelligenza, secondo me. Vediamo. Dobbiamo rispondere a Pietro, però no? Sì, prego, vai. Però non me la ricordo, sulla moviola di Cagliari Juve, sì, è vero tutto, è vero, mancava anche una munizione. Mancava un rigore a Cesena ieri alla fine? Ma ha rischiato molto, c'è anche da dire che nel primo tempo sinceramente c'era un secondo giallo possibile per Perico, per cui io ieri ho visto tanti errori nella direzione arbitrale, ma non ho visto, è quello che continuo a dire di questa stagione, non ho visto un disegno dalla parte piuttosto che dall'altra. Adesso dico una cosa politicamente scorretta, Pogba non è stato ammonito, forse per la Juve era meglio che Pogba saltasse Juve-Atalanta, visto che la partita dopo è Roma-Juve, magari può essere un po' dietrologico il discorso, quindi continuo a non vedere. L'altra cosa era sullo Tito, forse? Sì, sullo Tito, ma non me la ricordo più, non l'avevo capito. Se c'è un complotto, non la ricordo benissimo, se l'intercettazione è stata realizzata per secondi, terzi, quarti, fini. No, beh, l'intercettazione è stata apposta per sputtanarlo, su questo non ci sono dubbi, nel senso che non è un'intercettazione, è una telefonata registrata in cui una persona che è comunque in confidenza lo provoca e gli fa dire delle cose. Poi che queste cose siano censurabili non c'è discussione, che sia un membro del Consiglio federale e quindi ne nasca una situazione imbarazzante è indiscutibile, che Lotito abbia avuto altri comportamenti poco eleganti nella sua attività anche e soprattutto da consigliere federale lo strasottoscrivo. Però sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè uno degli elementi secondo me che contribuiscono a rendere questa vicenda per me non così chiara è proprio il fatto che insomma non è un discorso pubblico, è stata una gaffe clamorosa che certo, pubblica, me avrebbe dovuto pubblica. Portare i presidenti a votare in maniera diversa e a scegliere un altro candidato, perché era una gaffe clamorosa in un discorso pubblico e quindi era insopportabile che il candidato presidente dicesse questa è una sfala privata e ripeto, il punto è capire se Lotito poi è andato da Bodi veramente da Bodi, dagli arbitri, a dire oh, mi raccomando non fare salire su questo le prove non le abbiamo, quindi siamo ai confini del legale, siamo o forse oltre i confini però, della, però gli schieramenti politici sono chiarissimi, tu guarda chi l'ha attaccato e guarda chi l'ha difeso. Vabbè, è lo stesso schema di quest'estate, Juve e Roma dalla parte, no però voglio dire, però questo secondo me ci dice, siccome noi siamo ragazzi tutti abbastanza svegli, ci dice che in atto non c'è la discussione sulla singola materia, c'è una sfida politica fra poteri dei quali a me, a te non ce ne può fregare di meno, noi facciamo le questioni di merito, però facciamo questo non faccio fatica a pensare che sia giusto stare da una parte o stare dall'altra, no? Però le reazioni sono chiarissime. Ieri, guarda caso, Baldissoni ha detto che non c'era bisogno di questa telefonata per definire Lotito, Marotta ha detto che Lotito è pericoloso, Gagliani di contro l'ha difeso dicendo che è un suo amico, mi sembra quasi lo stesso schema di una settimana fa, esattamente la fotocopia dello schema che avevamo quest'estate, che ha portato all'elezione dell'attuale presidente federale Traffico. Tutti convocati. Siamo di corsa con gli ascoltatori, un bello sprint. Graziano Modena, buongiorno. Buongiorno, Graziano da Bologna. Bologna, differenza Bologna-Modena, c'è un po' di rivalità, un filino. No, sai perché sto lavorando su Modena e però io sono nato a Bologna. Vabbè. Ti dico qual è il discorso. Allora, mi sono rimasto sorpreso perché io ho telefonato 4-5 mesi fa a voi e ho preso una rimpallata perché ho visto Lotito con la giacca della nazionale e sono rimasto sorpreso e mi avete risposto Marco Rovolini, Gagliani, Bolivar. Io sono stato zitto, però adesso mi devo sfogare perché effettivamente Lotito sta rivelando la sua vera personalità, dai, è inutile. Poi non ho capito qual è il discorso della telefonata fra lui e Iodice, perché è una telefonata personale, ma scusate, allora tutte le telefonate fra mafiosi, intercettazioni e quelle cose lì, Graziano, però ci deve essere però ci deve essere anche qualche limite alla tutela della privacy, perché se una telefonata contiene una notizia di reato, allora scattano degli altri meccanismi. Se io mi metto a intercettare una telefonata tra me e Giorgio De Luca che dice che il nostro caporedattore è un farabutto, la faccio sentire in onda e poi Giorgio De Luca me lo licenziano, allora non va benissimo. Ci sta, Pardo. Esattamente questo. Poi Lotito con la maglia della giacca nazionale piaceva nemmeno a me, l'abbiamo detto. E molto spesso, anche per esempio nei rapporti con i tifosi della Lazio, Lotito ha... spesso insomma il problema sarà un problema anche di forma, la forma è importante nella vita, quindi da questo punto di vista io veramente vorrei scomprare il campo da qualsiasi equivoco, non è che stiamo difendendo Lotito in quanto Lotito, però secondo me questa vicenda qui, per i modi nei quali è arrivata e per gli aspetti realmente rilevanti, mi sembra un po' poco e mi sembra abbastanza sospetto il modo nel quale questa cosa è venuta fuori. Sì. Tutto qui, poi sì. In assoluto, viva il Carpi, ci mancherebbe altro, viva il Frosinone, viva chi vi pare, il Chievo sta in Serie A da 15 anni con un bacino d'utenza che è quello di un quartiere, di una città di Verona, e da 15 anni è in Serie A e ormai sta diventando una grande. Quello che ti ho detto ieri, sono rimasto basito di fronte all'intervista di Lotito ieri su Corriere della Sera, quando dice bellamente che il presidente della Serie B è un cretino, quindi davanti a quello che non è un'intercettazione, allora discutiamone, apriamo un dibattito, eccetera. Però bisogna avere anche un minimo di equilibrio sulla, sulla tutela dei diritti di, delle persone di questo dannato però, paese. Scusate, io non l'avrei mai votato, lo dico, no, il consigliere federale, ma l'hanno eletto, cioè, l'hanno eletto loro signori, roba, mica noi. Cioè, è democrazia. E io, sai, adesso non voglio entrare in particolari, a livello politico ho quasi sempre perso le elezioni, cioè, mi sono sempre trovato in una minoranza, e però alla fine il verdetto lo accetti, non so come dirti, non è che è stato, non è che Lotito è stato messo con un golpe da una, dalla Spectre arrivata all'organizzazione. Lotito è stato eletto consigliere federale dalle persone che governano il nostro caso. Certo. Poi chiaramente quando ci sono dei comportamenti censurabili è giusto che ne rispondano loro, che ne rispondano altrettanto loro signori che l'hanno eletto, anche questo. Antonio Torino, buongiorno. Buongiorno. Volevo... Ciao Carlo, ciao. Ciao, Pier. Ciao. No, perché prima Pier diceva la consacrazione di Allegri. Per me la consacrazione di Allegri ci può essere forse cambiando al 3-4, al 4-3-3. Perché Vidal in quella posizione proprio non si può vedere e non penso che abbiamo giocatori per fare quel ruolo. Magari finalmente portando al 4-3-3 vedremo un'altra Juve. Però chi levi? Sono d'accordo, ma chi levi? Leverei Vidal per il momento che c'è di forma, lascerei Pogba, Marchisio e Pirlo lì al centrocampo e in attacco metterei Tevez, Morata e Coman o Pepe. Sì, beh, insomma, sì, diciamo che togliere Vidal per mettere Pepe o per mettere Coman mi sembra un po' un azzardo. Dal punto di vista teorico di modulo sono d'accordissimo con te e credo che la suggestione Snyder fosse nata anche per questo, no? Per riuscire a trovare delle alternative, proprio perché nessuno dei quattro centrocampisti della Juve nasce regista, o meglio, l'unico che ci nasce è Pirlo, che però chiaramente adesso trequartista, adesso è diventato regista davanti alla difesa. Sono tutti abbastanza simili, cioè Vidal come posizione in campo, Vidal, Pogba e Marchisio sono giocatori simili, sono giocatori che danno il meglio in un centrocampo a tre da intermedi accanto al regista, da incursori, con caratteristiche diverse dal punto di vista fisico ma della stessa pasta. E lì secondo me Allegri fa una valutazione che è quella di far giocare i migliori con un minimo adattamento che chiede a Vidal quando gioca trequartista, quando gioca regista offensivo. Guglielmo Roma, buongiorno. Eccoci. Dica. Prima della domanda volevo fare una considerazione sul rosicone romanista che ha telefonato poco fa. Sì. E quella è colpa vostra che... Nostra, un'altra volta. È nostra. Ancora. È colpa ancora. Vostra perché quando entrano in quel modo, gialli dalla bile, rossi dalla vergogna, gli dovete stoppare subito, no? Certo. Tra poco tirava fuori pure che, non so... l'arbitro faceva le capriole. Ammettiamo tutte le nostre colpe e poi cosa sta accadendo? Sì. Ma che questa è democrazia, democrazia. Ammettiamo tutte le nostre colpe, è vero, confessiamo che è colpa nostra. Poi voleva chiedere anche qualcosa? Sì, volevo chiedervi se non era meglio che andava a pascere pecore l'allenatore della Juve, sia ieri che contro l'Udinese. Ma che aspetta a cambiare modulo? Che gli stavano prendendo a pallate. A pasce e pecore Allegri. No, io dico che se l'allenatore della squadra capolista con 7 punti di vantaggio deve andare a pasce e pecore, gli altri che devono fare? Cioè, che devono fare? Facciamo sì, proprio diamoci tutti. Zaghi in dov'ha? Appunto. Povero Pippo, però che dire, è vero, cioè, non, ma, insomma, io ripeto, per me Allegri la sta gestendo, sì. La sta gestendo rispetto a un anno fa in campionato, si prende qualche licenza, si prende qualche riposo, anche perché la Roma non è quella di un anno fa, la verità è questa, è numerica, certo. E quindi fai anche la corsa, fai anche fra 20 giorni, dopo Roma-Juve, dopo Juve-Dortmund, possiamo già fare un bilancio un po' diverso. Facciamo due conti. Grazie Pier, non ciao. Andare a pasce e pecore, perché no, c'hai no, da fare con Tiki Taka. Ciao. Si ricomincia. Tutti convocati. Fischia Valeri, si arrabbiano quelli dell'Empoli che non hanno sfruttato nemmeno con un tiro in porta la doppia superiorità numerica. Il finale è 1-1. Il finale è 1-1. Check out. Siamo in un periodo un po' così, è complicato, abbiamo tanti infortuni, ogni partita succede di tutto, perché oggi veramente è successo di tutto, non mi ha permesso neanche di fare i cambi, insomma perdere dopo 30 secondi un giocatore che si rompe il naso è incredibile. Chiaramente era una partita complicata, probabilmente la più difficile delle quattro, avevamo detto tutti, l'Empoli mette in difficoltà chiunque, sono veramente bravi, per cui eravamo stati bravi anche soffrendo, eravamo andati in vantaggio, penso che è stata una partita abbastanza equilibrata, perché non ricordo grandi parate del nostro portiere, neanche del loro. 800240024 numero verde, mentre Manenti dice a Radio Parma: contiamo di fare un comunicato nel quale diremo che stiamo adempiendo agli impegni presi, stiamo facendo un giro di tutti i fornitori ed è una cosa lunga, l'ora limite è mezzanotte di stasera, vogliamo pagare non solo i tesserati ma anche tutta la parte che sta dietro a questo sistema, quindi anche i dipendenti, perché non c'è differenza tra tutti coloro che lavorano nel Parma, per i tesserati c'è tempo fino a mezzanotte, lo devono intenzioni, aspettiamo mezzanotte. È un piacere ritrovare Alessandra Bocci della Gazzetta dello Sport. Ciao Alessandra. Ciao. Piacere anche per me, ciao. Che scrive oggi una pagina delle opinioni sotto il titolo Orgoglio e Dignità, firmato Provinciali, Parma su tutte, poi Cesena e Empoli fermano le grandi, e io aggiungerei giornata dedicata ai tanti lotiti del calcio italiano, come ho detto prima peraltro. Sì, però insomma diciamo che Lotito ha detto la cosa in maniera un po' dirompente, ha creato, come quasi sempre succede, dibattito, però alla fine le cose che ha detto lui erano state dette in altro modo da altri, in maniera magari meno dirompente, meno urticante, ecco, questo bisogna dirlo. Prima ha chiamato un ascoltatore, ha detto che Allegri, visti i due pareggi di Udine e di Cesena, dovrebbe andare, ha detto lui, a pasce e pecore. Dove dovrebbe andare il povero Pippo Inzaghi? Non lo so, vabbè, Allegri è uno di quelli che non ha mai molto a favore dei tifosi, non capisco perché. Inzaghi ne ha avuto moltissimo di favore dei tifosi finora. La situazione è complicata, mi pare che, come probabilmente era prevedibile dall'inizio dell'anno, si vada, anche se magari con risultati poi di classifica diversa, insomma quello conta poco. Mi ricorda moltissimo, visto che sono un po' vecchia, la situazione del Milan, del Capello bis, del Sacchi bis, quando qualcosa può andare peggio lo farà, sì. Purtroppo devo dire che il morbo del come eravamo è un morbo che ha grandi radici nell'ambiente Milan, non solo in società ma secondo me anche in una fascia di tifosi, forse una volta che si smette questo atteggiamento, io l'ho detto tante volte che me lo chiedono, quando decideranno di capire che il mondo è cambiato, sarà tutto molto molto meglio anche per loro. Sono cambiati anche loro, eh? Esatto. Questo, però, di sì, ma se ne sono accorti, però sai com'è, allora c'è quello che dà la colpa a Gagliani, quello che dà la colpa alla confusione societaria, che sinceramente potrà essere una cosa non appropriata, tutto quello che volete, però insomma sinceramente non credo si possa sostenere che questi risultati sono frutto del fatto che il Milan abbia due amministratori delegati, onestamente mi sembra bizzarro, ecco. La società può essere tirata in ballo per quanto riguarda gli acquisti, la mancanza di investimenti se paragonato agli investimenti faraonici di anni fa, però insomma adesso sostenere che quello che sta accadendo in campo dipenda dal fatto che il Milan c'è confusione, ci sono due amministratori delegati, mi sembra un pochino fantasioso. Altrimenti il Parma ieri un pareggio mai a Roma, no? Sì, certo, questo è evidente. Ma si può andare avanti così il Milan? Cioè può trascinarsi in questo modo fino a fine stagione, secondo te? Io credo di sì, totalmente. Si trascineranno fino alla fine della stagione, e dopodiché magari ci sarà, ecco, quello che possono sperare i tifosi del Milan è che ci sia un break, proprio un taglio definitivo, come è successo, ripeto, dopo l'annate del Sacchi bis e del Capello bis, dopodiché fine della grandeur, si riparte con Zaccheroni, che al presidente non piaceva, però bene o male ha portato uno scudetto al Milan. Adesso non dico che l'anno prossimo il Milan vince lo scudetto, però ecco, se proprio è un esempio del passato, i tifosi del Milan si vogliono attaccare o in qualche modo vogliono usarlo per consolarsi, sono già passati. Posso pensare a questo, da quelle strade sono già passati, con Sacchi e con Capello, quindi non è esattamente un inedito. Esatto, lì c'erano due allenatori di ritorno, qua ci sono due personalità di ritorno, perché comunque prima c'era Seedorf e adesso c'è, per giunta, non allenatore, il che aggrava la situazione, perché adesso con tutto il rispetto. Seedorf è sparito dalla circolazione, giustamente odia tutti i giornalisti perché è stato a suo modo di vedere maltrattato, eccetera, eccetera, per cui se ne hanno scarse notizie. Inzaghi sta facendo quello che può, però io credo che, ecco, ho detto, avevano degli allenatori e in questo caso non li hanno avuti, nel senso che giustamente Filippo ha studiato, ha il patentino, tutto quanto, però insomma quando sono tornati Capello e Sacchi si parlava di allenatori che avevano vinto Coppe dei Campioni, Scudetti, eccetera eccetera, neanche lì aveva funzionato. Sicuro. Quindi bisogna che ogni tanto forse loro facciano un po' di purgatorio, ecco, lo stanno facendo, magari dall'anno prossimo va meglio. Grazie Alessandra, buon lavoro. Grazie a voi, ciao, ciao, Alessandra, ciao, Bonacci. Ciao. 800240024, io torno ai convocati di oggi. Angelo da Napoli, Granina già prima, grazie. Salve, buongiorno. Salve, buongiorno, dica. Volevo chiedere un risvolto, mi dispiace che Pardo è andato via, perché diceva prima noi siamo belli svegli qui, però nessun giornalista ha sollevato il problema di come intendeva Lotito poi dire... Non me le fa salire tutte e due, ma lei, a parte l'arbitro, conosce qualcuno in grado di modificare il risultato di una partita? No, no, ma vabbè, abbiamo sottolineato... Poi qualcuno si deve, voglio dire, porre la domanda, che tanti, tutti gli italiani, tranne i gioventini, ogni domenica sera questa domanda se la fanno, perché sì, si sono sì, tifoso sì. del Napoli, quindi, sì, sì. voglio dire... Però, ma quello è stato il passaggio, ma è stato sottolineato subito, Angelo, subito, in tempo reale, cioè come abbiamo sentito con intercettazioni, tutti abbiamo sottolineato il fatto che questo slang sia particolarmente inappropriato / preoccupante, quindi non mi auguro che l'indagine di Palazzi di cui si parla, che ma tocca loro intervenire, toccherà anche il arbitrale, voglio dire, perché almeno si dovrà spiegare come si intende modificare la partita, perché solo l'arbitro può fare una cosa di questo genere. Sì, ma si tratta di capire che cosa voglia dire quel non me le far salire tutte e due. Però una cosa è questa ed è molto grave, e non c'è dubbio siano parole che ci lasciano tutti molto, molto perplessi. Un'altra cosa sarebbe stata un'intercettazione ad una telefonata di Abodi dove dice: oh, guarda che quelle due non devono salire, e allora fai in modo che non salga. Il fatto che le telefonate bisogna distinguere. Sul fatto delle intercettazioni io la penso esattamente come lei, dovrebbero essere, cioè, dire, ci vogliono anche dei confini della legalità, cioè ci devono essere obbligatoriamente sì, perché molto, non c'è un reato in queste parole di Lotito, semmai c'è un reato, può essere configurato un reato nel registrare una telefonata privata, nel divulgarla pubblicamente, perché ci sono anche dei limiti alla tutela della privacy delle persone, quindi questo è un altro punto di cui bisogna tenere conto. Detto questo, tocca al fronte sportivo e a loro signore darsi una svegliata e andare a fondo di questa vicenda senza che passi tutto in cavalleria entro breve tempo e dopo che si sarà posata per terra la polvere, questo è indubbio. Grazie Angelo. Antonio, provincia di Milano, buongiorno. Buondì. Dica. Povero Milan. Povero Milan. Mi dispiace, uno che ha visto giocare Altafini, Amarildo. Sì, adesso vede, ma è ingeneroso fare i nomi di faccia a lei, insomma, no, adesso ti vede giocare. Noi abbiamo 14 difensori, se non sbaglio, 14. Sì, record stagionale, sì. Ma ragazzi, Di Sciglio non può giocare a sinistra, c'è un piede solo, ma lo vedo solo io, non lo so. Abate non è un difensore. Mexes, Alex che è fermo Alex, cioè ragazzi, centrocampo inesistente, continuano a comprare attaccanti, si parla di attaccanti, ma ragazzi, ma la dirigenza lì, cioè nessuno vede queste cose qui, boh, non lo so, non riesco a capire io. Non abbiamo due passaggi di fila, non sono capaci di farli. Rami ieri da centrocampo butta la palla in rimessa laterale sui piedi dell'attaccante e Paletta, se non fa quel pallo lì, quello va via. Qui non ci sono più con la testa, ragazzi. Sì, Rami l'abbiamo visto anche in occasioni precedenti in un improbabile dribbling nel cuore dell'area, quindi ieri spazzarla era migliore dei quindi, no, ma... non ci si può inventare allenatori. Allora avevamo Allegri, l'abbiamo detto di tutti di più, primo anno ha vinto, secondo anno gliel'hanno scippato. Sì, è vero o non è vero? Secondo anno è successo quello che è successo, terzo anno secondo me è stata una buona stagione di Allegri tra mille difficoltà, poi è finita come è finita, quindi Questa è la storia dell'Allegri, che però aveva una squadra oggettivamente un po' diversa rispetto a quella, questa non squadra che ha Inzaghi, e in questo fatto che non sia una squadra, Inzaghi, spiace ammetterlo, ma oppure no, è nostro dovere ammetterlo, non, cioè ha le sue responsabilità, non c'è discussione. Saluto e ringrazio Luigi Mastrangelo, che è stato una superstar della nostra pallavolo. Ciao Gigi. Ciao ragazzi. Mi dicevano che ieri eri molto impegnato nei tweet nel corso della partita con sì, la Juve. Io da juventino cerco di in qualche modo di incitare, di dare qualche piccola scossetta, ma bisogna stare lì in campo, perché domenica come quella di ieri bisogna comunque approfittarne, no? Sì. Soprattutto il pareggio anche della Roma. Sì, ma secondo te è una Juve col braccino da sportivo? Secondo me sì, perché già in un paio di occasioni, anche tre, non ha saputo approfittarne di questi, diciamo, mancati risultati della Roma. Uh-huh. È anche vero che secondo me la Roma penso si sia un po' rassegnata, no? Che abbia un po' mollato. Però proprio per questo, sì, che aumentare il distacco, aumentare i punti anche in vista dello scontro diretto, sì, non sarebbe male. Però ti sarebbe capitato di essere in testa al campionato e quando vedi che la seconda non ce la fa più, cioè magari oggettivamente un filo di, non ti dico, sì, un rilassante, po' ti puoi anche rilassare, ci può essere successo questo? Guarda, succede sai quando? Sì, a me è capitato quando avevo delle partite di coppa importanti, quindi magari ti potevi un po' tranquillizzare in campionato, ti risparmiavi un po', sì, diciamo, lì interveniva anche una gestione dell'allenatore, proprio mirata a certe partite, a momenti della stagione importanti. Ti piace Allegri? Guarda, sì, però ti posso dire una roba, io preferivo Antonio. Preferivi Antonio? Sì, questi piccoli... Diciamo, la Juve di punti ne ha persi tanti, no? Secondo me ne ha persi tanti in questo campionato. E con Antonio non sarebbe successo. Come sta la pallavolo italiana, Gigi? Ma più o meno, sono passati i tempi belli, diciamo che sono quelli che ho vissuto io, e chi prima di me sono passati, non ci sono più. Sì, non tornano secondo me. Non arriveranno più, insomma, ecco. Sei così pessimista? Sì, perché un po' per la situazione un po' economica che c'è in Italia, che stiamo vivendo, per questo motivo i tanti campioni, cioè, che avevano fino all'anno scorso, 2 anni fa, reso il nostro campionato quello più bello del mondo, sono andati tutti all'estero. Sì. Andati all'estero a giocare. Per potere dei soldi, no? Sì, ecco, per monetizzare, e quindi di conseguenza il campionato perde importanza, perde diciamo i giocatori più forti, quelli che riempiono i palazzetti. Certo, anche se io non ci trovo niente di sbagliato in questo discorso, per un professionista. No. Cioè perché... il professionista, sì, è giusto. Il professionista deve andare, ma certo, certamente. La carriera non dura, non è eterna, però non è bello, perché vabbè, stiamo parlando... Mi hai chiesto un po' com'era la situazione, sì, in Italia, e te l'ho spiegata. Sì, no. Io avrei fatto la stessa roba, anche se, ma certo, dico, a me non è mai capitato, perché nel mio ruolo da centrale, i centrali erano quelli meno richiesti all'estero, no? Soprattutto in squadre tipo, io ne so, squadre russe certo, turche, polacche, perché comunque hanno già tante bestie loro lì, anche più alte di me, sui 2.10, 2.20, non hanno bisogno di centrali. Non è altezza, no? E allora è andata così. L'ultima cosa, cosa fai? Che piani hai per il futuro? Ma io, come ho dichiarato tante volte, vorrei fare l'attore. Mi piacerebbe, sì, lo sto studiando un po', ho fatto una piccola particina, una soap, che è quella di 100 vetrine, sì, qui a Torino. Però l'ho fatto me stesso, quindi ancora bisogna trovare un ruolo che mi vada bene, ti diverti, perché però sono alto 2 metri, certo, e passa, sai, arrivo da una carriera, tutti mi conoscono come un atleta, e certo, quindi sai, non è facile ricostruirsi un... Però ti diverti, è una cosa, sì, che è ti diverti. Bello, è divertente, sì, è divertente quando riesci a fare determinate robe, a lavorare con delle persone giuste. Grazie Gigi, buon lavoro. Grazie a voi, è stato divertiti. Piacere. Ciao Gigi Mastrangelo. Torniamo agli ascoltatori. 800240024, 6 minuti sul cronometro. Patrizio, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di avermi convocato. Grazie a lei, dica. Ascolti, io ho acceso adesso la radio, quindi probabilmente avete già parlato. Una curiosità: i cambi degli ultimi minuti di ieri della Juventus col Cesena sono stati fatti per paura di perdere e quindi perdere tempo, o qualche altro motivo? Perché cambi così non riesco a capirli. Oh. Non credo all'intento di perdere tempo, sono stati, possono essere discussi, ma sono stati secondo me dei cambi tattici, magari anche dovuti a motivi fisici. È stata una partita molto dura per la Juventus, che stiamo provando a capire, ma lo capiremo a stretto giro di posta, se abbia l'idea fissa, il chiodo fisso di una Champions League condizionata anche dal punto di vista fisico. Ieri però è stata, è da sottolineare, l'incazzatura vera di Gigi Buffon dopo la partita. Ma la Juventus alcune volte non capisce che il campionato non ce lo regalano gli altri, cioè nel senso, e quando lo fanno noi dobbiamo essere bravi e furbi a cogliere l'occasione, perché molti giocatori, tra quali anch'io, devono ancora capire che la Juventus, per avere la legittimità totale di una vittoria in uno scudetto, deve vincere con almeno 15 punti di distacco, e per cui queste sono occasioni troppo importanti da poter delapidare. 15 punti, legittimità, 15 punti, tanta roba, anche se Buffon ovviamente parla da leader capitano. Ieri sera abbiamo visto anche in campo, era parecchio arrabbiato. Restiamo su questa pseudo lotta scudetto, perché ragazzi, secondo me, non, diciamoci la verità, non esiste più. Cioè, di che stiamo parlando? Roma, 5 pareggi in casa consecutivi, non vince all'Olimpico al 30 novembre dal 4-2 sull'Inter, di che cosa stiamo parlando? Però ieri c'è stato di nuovo refrain dei fischi, che sta diventando ormai una tradizione all'Olimpico quando gioca la Roma, dei tanti pareggi Nainggolan su questi fischi. Fanno male questi fischi? Io penso che anche quando perdevamo 7-1 ci sono sempre stati dietro. Oggi hanno cercato di starci dietro, però la delusione è molto delusione da parte loro, come da parte nostra. Però stiamo cercando di dare il massimo ogni partita e speriamo di ripartire prima possibile. Si ritorna lì, quel 7-1 è stata la chiave di volta, probabilmente il negativo della stagione giallorossa. L'avevamo forse sottovalutato. Quella settimana è stata molto importante, forse da lì sono arrivati quei granelli di polvere negli ingranaggi di cui ha parlato ieri con onestà Florenzi. Patrizio, provincia di Bergamo. La ringrazio. A lei, dica. No, io ero già intervenuto prima. Allora ringrazio lei per essere intervenuto. Faccio un salto a Firenze da Francesco. Sì, buongiorno. Dica. Niente, sulla vicenda Lotito. Buongiorno, grazie per la convocazione, la frase di rito intanto. Grazie a lei. Niente, buongiorno. Volevo dirle, no, sulla questione Lotito, e insomma, queste presidenze, la presidenza di Tavecchio e le ultime frasi di Lotito fanno vedere come è in decadenza questo calcio. Cioè, ci si domanda stadi vuoti, le famiglie non vanno allo stadio. E bisogna che queste persone, secondo me, sono nati vecchi, ormai è ora di cambiare. Non abbiamo avuto coraggio di cambiare. Questo è il vero problema del calcio. Beh, non noi. No, noi, ripeto, noi loro, però signori, potete essere una parte importante, perché fate opinione. Voi dovete, questa gente la vale. Ma alla fine decidono loro, perché se si va a risentire quanto dicevamo in tempi elettorali, insomma, si può fare opinione, ma poi alla fine decidono loro. E poi è interessante notare quanto diceva prima Pardo, e cioè che la radiografia delle reazioni a questa vicenda riflette esattamente la situazione che c'era e gli schieramenti che ci sono in Lega Calcio ai tempi dell'elezione del Presidente federale. Alfredo Milano, buongiorno. Eccolo, qua. Dica. Finalmente. Dicevo semplicemente che se Allegri non registra la difesa, 2 o 3 partite le perdiamo come ridere, perché ieri se vinceva il Cesena nessuno poteva dire niente. Idem con l'Udinese, col Milan, se entra il gol di Passini, dove andiamo? Andiamo a rubare biciclette, come dicono qua a Milano. È giusto o no? Dal pasce del pecore a rubare biciclette. Sì, forse sì, è un po' troppo duro, Alfredo. Aver comprato dal Genova, aver fatto arrivare qua quel giovanissimo lì, e dopo lo tengono ancora lì in panchina. Cosa facciamo? Sturaro. Ballano la samba. Ma non so più cosa no, dovrebbe ma adesso dovrebbe mi viene l'infarto ieri no, sera. Beh, io sono 80 anni, sono lì. Non dica così. Tutte le domeniche così, diventa una tragedia di me. Ma più 7, però si può anche stare un po' rilassati dalla partita. Abbiamo avuto più 9, abbiamo avuto più 7 ancora. E a Perugia abbiamo Perugia. Sì, me la ricordo, ma insomma, avrà vissuto situazioni più complicate e combattute di questa. Ma a me la Juventus ma già sono incappato con Conte quando perde con la Sampdoria in 10 contro 11 tutti l'attacco e con il sedere scoperto e prende due gol. Allora io capisco tutto quanto anche da parte dei tifosi, però fossi juventino, insomma, più 7 con una Roma che la benzina ce l'ha più, non starei più di tanto a preoccuparmi per il discorso tricolore, starei piuttosto ad aspettare, e cosa che insomma vedremo tra una decina di giorni, l'exit poll europeo, quello sarà davvero interessante. Abbiamo tempo per parlarne comunque, ragazzi. Grazie Giorgio Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione. Domani alle 2 tutti convocati. Io vorrei dire a voi giornalisti, uomini di cultura, cosa sentite di fronte al fatto di dover commentare il campionato più taroccato del mondo?